gave you the digits, man. I did try to call you. I did send you a text too. There, right? The 410. I sometimes do the doggone same thing, man. I know when I'm at the sugar mine, I turn it off. I don't turn it back on until I get home. There, right? Today I'm on the I think I'm going to go up one and read the mail up there and then maybe drop down a little bit to the Super Bowl, see if I might get my name called before I go to the mine there, right? 410, that sounds like a grand plan. I wish I could do that myself, but I got to get ready to go to the mine this afternoon, but I'm going to enjoy it before I do. Got to go in there, right? Ciao Antonio. Beh, allora. Ciao Antonio, aspetta che cambio il microfono. Perché c'è solo karaoke, che roba, non può godere. Ecco qua tu, ho cambiato il microfono. Antonio, cantando sai? Ero molto tempo senza cantare, adesso se la accendo. Ma tu vai, così almeno ti passa il tempo così, un po' in allegria, così va bene. Fatto cipollino e dormendo. Oh, addormentato bambino, già fa bene anche dormire ai bambini, guarda, i bambini devono giocare e dormire, e così stanno bene. Beh, sono andato a guardarlo, mi sembra tranquillo. Certo che sì, io credo che è tranquillo, caspita. Se non è tranquillo lui a quell'età, quando è che deve stare tranquillo una persona? Piccolino, E ci gasta in un po' di ciò, 87, va. Ok, già lo grido io. Beato lui che è così piccolino, che ha 100 anni di vita davanti. Giulio, prova. Sì, mi sento adesso, non mi senti bene, perché? Adesso c'è capa che cosa. Come mi senti? Basso mi senti, così hai detto. Aspetta, adesso che stiamo col girato. Ma cos'hai, problemi tu hai d'ascolto o io che sto trasmettendo male? No, ce l'avevo io girato. Ah, ho capito, no, pensavo che fatto male che abbia la batteria scarica, stavo già pensando, invece no, mi stai dicendo che avevi un problemino tu, va bene, comunque, siamo intendi. Capa, se ti sento, questo qua è la 87. Giusto, poi vogliamo, tanto bene, già andava. Ora, ora. Ehi, a voglia, alla grande, ma grande però, anzi alla grandissima. Scappa. Facciamo lo stesso girato. Perché se aveva un difetto, la sabbia puntata, già funzionava però. Come fa il cellulare? Aspetta, altro che se funziona bene, benissimo funziona, non bene, benissimo, di più anche. Aspetta, qualche difettuccio. E che difettuccio ha? Io non ne sento difettuccio, la verità, si sento benissimo, la bella radio, forte, chiaro. No, è la potenziometro, mi stava dando problemi. Ah, il potenziometro, ci vorrà una frustatina di quelle lo fly per i contatti elettronici. Una di quelle, cos'è, ti fa scariche quando lo giri? Mi fa scariche, mi fa. Però se sta uscendo bene l'apparecchio non mi preoccupo più di tanto. Non c'è problema. No, ma niente di grave, guarda. guarda, quando è così niente di grave. Se tu hai di quello spray per contatti, dagli una spruzzatina sul potenziometro e vedrai che poi non ti fa nemmeno più scariche quando lo giri. È così, perché la polvere stesso, anzi il consumo stesso della grafite che c'è all'interno del potenziometro che crea questo problema. Basta dargli una pulitina con quella fare, una spruzzatina dentro il potenziometro, e fai un paio di giri e si è a posto, guarda, ti risolve il problema subito. Strano, guarda anche a Dozzano, cazzo, va a prendere il suo problema. Che strano, cazzo, il volume. Ma è così, Anto, quello sono cose che possono succedere da un momento all'altro. Te lo sto dicendo, è la polvere che si forma all'interno del potenziometro, il consumo stesso della grafite. All'interno del potenziometro c'è una specie di grafite, no? Cioè, quella porta di girare il potenziometro, consuma, e allora può fare una patina che ti crea questo disturbo. Dai una struttatina di quei contatti, quella fare per contatti, e vedrai che tutto funziona alla perfezione. Vabbè, allora non nato di questa roba, se no la bella tecnica è una bella situazione, cappa. Ci accendiamo anche lui, va, facciamo scaldare un po', che da un po' di tempo, non da tanto, cioè, si rovina sta cosa, ecco qua, ora, salva. Dopo facciamo il cambio, va. Facciamo scaldare la bestiolina, facciamo scaldare. Ok, la bestiolina anche deve scaldare, vabbè, quello non è un problema. Anche senza la bestiolina arrivi a bomba qua, per cui non c'è problema. Anche se non lo usi, però lo devi far andare. Vabbè, quello sì, intanto già non gli fa male se lo metti in funzione, anzi diciamo che alle volte quando non si usa succede che voi ha necessità proprio di essere usato, proprio per essere sempre ripristinato al massimo. Bisogna far andare un pochino, perché sennò adesso l'ho messo in stand-by, l'ho messo. La valvola si rovina e se tu devi lampada, cioè lampada no, ma devi comprare la valvola e costa un bel soldi. Io non ho idea quanto costava adesso, ma c'è un bel, però. E quindi metterò l'efficienza per quello. Sì, la valvola costa sì un sacco di soldi, costa veramente un sacco di soldi, la valvola è così. Già lo so, guarda, io ho delle radio antiche, di quelle radio normali, antiche, no? E valvolari, e avrei voluto mettere tutte le valvole nuove, ma costano un patrimonio, ragazzi, le valvole costano 40-50 euro l'una, mi sembra che ce ne sono in ogni radio 6 o 7, se ricordo bene, e io la radio l'avevo tutta ripristinata, funziona, sì, quella è la grande, però le valvole sono sempre un po' esaurite, per cui sarebbe bene sostituire tutte, ma come ti fai? Ma ti sembra che posso spendere un patrimonio in valvole quando magari il valore della radio è 50 euro e magari ce ne vogliono 300-400 euro di valvole, non ne vale la pena. Non ne vale la pena, no? Appunto, rimangono così fin quando funziona, cioè funziona, non è che non funziona, però c'è qualcuna qualche volta scivola, ma proprio per effetto appunto della valvola che sono un po' esaurite, soprattutto le valvole finali, dai, per cui, e allora no, ma non ne vale la pena, se ci fossero state magari anche qui a Sassari l'avrei anche comprato, mi ha dato, ne ha comprato uno, l'avrei sostituita, e invece devi scrivere fuori, devi scrivere fatele arrivare, lascia perdere, dai, preferisco tenermele così con la radio, già sono funzionanti lo stesso. Lo so, purtroppo Giulio è un casino, non pare che si fa, uno non lo dirà. Appunto. capito, ne ho sei, radio a valvole, così ne ho sei radio a valvole, di cui tre o quattro, che c'è anche il giradischi sopra, no? sul coperchio, che c'è la cerniera, no? E c'è il giradischi anche, tutto a posto, tutti funzionanti. Delle radio che non uso mai, ma una volta in un anno quante volte lo posso accendere? Una, due volte, non di più. Non è che può citare sempre quelle radio di utazzesi, ma non ci penso nemmeno, per cui se non li usi queste valvole, cioè queste radio a valvole così, soprattutto i condensatori eccetera, e anche quello c'è da considerare, e anche quelli si seccano, e cosa posso, diciamo le valvole, da voi dobbiamo pure i condensatori, ma non ne vale la pena, me li tengo così da vetrina e basta. Non so, c'è ragione. Appunto, no, anche perché intanto non lo uso mai, io di solito uso le radio quelle moderne, dai, diciamo, quelle moderne. Poi, anche qua dove sono in questo momento c'è un karaoke addirittura, che poi comprende tutto, c'è la radio, c'è tutto, c'è anche modo di parlare, attacchi il microfono e puoi cantare, ma io lo canto anche sopra un bettonato, per cui a me non mi interessa cantare, però la radio già mi funziona molto bene, non è un problema. Intorno ai 9-10, una cosa del genere, ne arrivavi, però quando vedi a casa di tuo padre, buonanima, con quell'antennino che avevi nella finestra, cosa ne arrivavi? 7-8 più o meno, una cosa così era. È trappata la musica, no? Ogni tanto l'accendo, ogni tanto, per farlo andare, cosa vuoi fare? Cazzo, ma me ne sta andando, porca bestia. Andene. È un grido che andene. Lo strumento non c'è, quanto ti dà lo strumento, non te lo segna. O non è strumento quell'alimentatore lineare? Sì che ce l'ha. No, ma io guardo lo strumento mio, sono 120 sono. Non l'ho tirato al massimo, guarda. Adesso è 200. Ora. Com'è? Abbassa. 120 basta, no? Ok. Infatti non lo tirare al massimo, no, tu. Non lo tirare al massimo, non credo ce n'è bisogno, perché se no ti consumi la valvola così inutilmente, che roba si va? Quando devi parlare fuori lo puoi tirare al massimo, ma per parlare qua non lo tirare mai al massimo, se no la valvola ti esaurisce. Lo sai che le valvole si esauriscono, funzionano sempre, però si esauriscono, e dunque se si esauriscono poi non hanno più quella potenza originaria che hanno come quando sono state costruite. Ma mettiamo anche un po' di meno. A 120 basta e abbassa. Se no pompa troppo, pompa. Ora. Facciamo scaldare l'antenna, che è un pochettino di tempo che ferma. L'antenna è andata bene, a voglia di andare bene l'antenna, alla grande non è problema, poi nella posizione dove sei tu, un palazzo così alto, caspita, è meraviglioso, segnale, un segnale meraviglioso. Io devo dire che è un segnale più forte che arrivi tuo quando attacchi così, quando attacchi così il segnale più forte di tutti è il tuo. Cappa, già va bene, dai. Prima manca il roccio andavo prima. E ti devo dire che l'altro giorno è entrato Roberto dalla zona sua, che qualche chilometro c'è da qua, Cazzo, 9.25 arrivavo, senza avere. Come prima, normale. Se attacco lì super, arrivo 9.30 arrivo. Mica è un bel mio, da Roberto Quadrato. Se attacco arrivo 5 punti in più, 9.30, mica è un bel mio. Sì, se per quello anch'io arrivo 9.20, 9.25, sempre con 10-12 watt, però non con questo di 2 watt di adesso, ma quando metto 10 watt, 12 watt, anch'io da Roberto arrivo 9.20, 9.25, a seconda della radio che usa lui, mi dà quel segnale lì. Ma là sono più forti di tutti, alla veloce sono, più forti di tutti. Adesso ce l'ha messa anche Pomponio, ce l'ha messa, ho visto la uguale alla mia, di aggiungere radiale, ma non rimane nulla aggiungendo radiale, se la deve essere tanto la metti originale, con i radiali suoi va bene, non gli fai niente. Sì, io l'ho sentito due o tre giorni fa, l'ho sentito che si è messo l'antenna uguale alla tua, ma arriva forte, Pomponio arriva forte, però lui stava usando 140, ma arrivava 9.15 mi arrivava, ma lui aveva 140, non so quanto ne stessi usando di watt, però con 140 è un'altra musica, è chiaro, più potente, no? Di un baracchino normale. No, va bene anche con pochi watt, c'è bene. Stiamo parlando di una 5 io. Cioè non siamo qua a vedere di una roba che è così, stiamo parlando di una 5 che tira forte. L'antenna è 10 euro per il baracchino e 100 per l'antenna. L'antenna è fondamentale, se tu non hai antenna non vai da nessuna parte, è l'antenna che ti dà le prestazioni, lo sappiamo benissimo, no? Anche con pochi watt, ma con un'antenna buona vai da in capo al mondo. Beh, è normale, sono scappato un pochino. Hola, già basta. Ok. Ora sono intorno agli 80 watt, basta, no? E avanzavo pure. Benissimo, va benissimo anche con veramente va bene anche se esce solo col baracchino, senza potenza, va bene lo stesso, no, non c'è problema. Arrivi qui alla grande. Ma mi è caduto un tappo, dove ci penso? Stavo bevendo un po' d'acqua. Non trovo il tappo, dove ci è uscito, vabbè, là, non fa niente, dopo lo troverò. Tappa, almeno lavora. Va bene, se no lavora troppo, spinge troppo pure. Se me ne raggio vicino dallo strumento che spingeva, che la mala sorte spingeva, cazzarola. Non lo so pensare, cazzo, quelli di vicino cosa è. Ma non va a sfruttare la valvola, che te lo fa fare? La valvola conservatelo per quando fai collegamenti fuori. Pensate, non va a sfruttare la valvola, perché te la vuoi esaurire così? Chi te lo fa fare? La vuoi di gioca a ciamballa, questa non vedere là. Perché è una valvola per il 131, mi sembra che hai. Mi sembra che sia la 509 o la 519, tutti e due vanno bene. E io penso che così oggi una cinquantina di euro buoni, eh? Ma lo riparerei perché funziona bene. No, adesso sta uscendo con una potenza molto risoria, diciamo. Sì, che è andato bene. Sto uscendo con una potenza molto risoria per non tirare troppo, dai. Appunto, è quello che ti sto dicendo, non la tirare troppo, perché se no ti esaurisci la valvola in poco tempo, e invece te la conservi, quando c'è qualche DX da fare, allora pompi forte. Sprecare la potenza della valvola, per senso non ne vale la pena, e chi te lo può fare? Conservatela la potenza, l'integrità massima della valvola, Antu, e poi usala quando è necessario, qua già va bene lo stesso. Cappa. E comunque sia queste valvole secondo me sono migliori, come segnare, boh. Dico, transito, ma che cazzo, io sto provando, io ho provato con la transito, con la valvola, cioè, danno anche meno frazionaria, danno, lo sai, io ho notato quello. Ho capito. Cos'è la rebettatore, cos'è? BV131, cos'è? BV131, però è modificato questo tira di più. Capito, da più watt, da. Ho capito, io già lo so che si possono modificare bene quel tipo di alimentatore legnale, già lo so, sì. Meglio così, dai, meglio così. Tienitelo bene, tienitelo conto, così all'occorrenza quando c'è qualche collegamento un po' difficile con il continente, puoi utilizzarlo e farti sentire bene alla grande. Sai, è un po' scalato il continente. Non c'è da meravigliarsi, in giro di impulsi, quando la propagazione è buona si può anche arrivare a fondo scala, perché no? Con un po' di potenza, glielo grido. Se la propagazione è buona, allora tanto di guadagnato, no? A tutti passo. Cioè, quando c'è propagazione, cioè, quest'anno mi sono divertito un pochino, quest'estate. Arrivo a fondo scala, meno che arrivavo 9,25. che cippano per vecchio. Il Massimo era sempre a Condoscana, sempre a Condoscana. Una volta in Sicilia, cioè, mi stavano dicendo, ma non ci credevano che ero in Sardegna, perché stavo toccando anche gli IP, stavo toccando, talmente stavo arrivando forte. Sì, beh, certo che sì. Quando c'è la propagazione buona, non c'è da meravigliarsi che uno possa arrivare anche a fondo scala. Tu pensa che io ho fatto collegamenti in FM, con soli 2 watt, e quando gli ho detto che stavo usando 2 watt in FM, non ci credevano loro, e io in realtà stavo usando 2 watt veramente, eppure mi sentivano fortissimo. Perché? Perché la propagazione in quel momento era meravigliosa. Sì, ma ne ho fatto collegamenti tanti. E beh, questi giorni non è entrato nessuno, io stavo lavorando ieri, non è nel lavoro, l'ho preso, non è entrato nessuno. Non lo so, Antonio, io ieri non ho potuto accendere, non lo so, io ho acceso un momento fa, quando mi hai sentito tu, io ho appena acceso, sicché non so cosa dirti, guarda. C'è il mio collega, ieri c'ero io, oggi c'è il mio collega, domani ci sono io, e sabato c'è il mio collega. Ok, vabbè, purtroppo il lavoro oggi non è più come prima, non è più come prima sì, il lavoro c'era, altro che se c'era, oggi invece è molto difficile, e quando riesci a averlo bisogna tenerselo conto. Bisogna tenerselo molto stretto, perché sennò senza lavoro non si può andare avanti, ci mancherebbe. No, io ho acceso un momento fa, stamattina non ho acceso lo stesso, niente, anche perché stamattina non c'ero a casa, sono dovuto andare a fare una visita di controllo, sono dovuto andare, per cui a pagamento naturalmente, perché intanto non trovi più appuntamenti con la sanità, ma l'ho fatto a pagamento e allora va bene così, in una clinica privata, là. Quando sei anziano il controllo ci vuole sempre di più, ci vuole. È già tanto che sei riuscito a farti una casa, una posizione, caspita. Ed è molto importante, meno male che come fanno certi che hanno la guadagna o 100 euro quando spagassarseli. Cioè, invece no, tu meno male che sei riuscito a farti una posizione, sei tranquillo, una casa, meno male, hai travagliato un bel e sei riuscito a farti una posizione. Capita il viaggio travagliato, ma lavorato però, quando se conto tutte le ore che faccio, che ho fatto, quando lavoravo, ho lavorato come un uomo di 120 anni come minimo, o altro, perché non è che facevo solo 7-8 ore al giorno, io ho 10-12 ore, andando in Andrade sono 14, purtroppo era così, la sera magari finivo, chiudevo io la falegnameria e dovevo andare magari a casa di qualche cliente che mi aveva chiamato per lavoro, eccetera, sai, lì dovevi proporre il tuo lavoro, cosa avresti fatto, eccetera, eccetera, poi a convincere il cliente, poi quando era difficile, mamma mia, appena visito i bastoni tonti come in terra nappa, però la verità non mi posso lamentare perché ho sempre avuto clienti che mi hanno sempre pagato tranquillamente senza nessun problema. Li ho sempre serviti però con grande coscienza, senza mai buttare a nessuno, perché non mi è mai piaciuto fare una vita da filibustiera. Io ho vissuto una vita tranquilla e onesta e dunque sono basato esclusivamente sull'onestà nel lavoro. È così che vabbè, grazie a Dio, sono 80 anni, c'è qualcosa, c'è qualcosa da celare, grazie a Dio. Adesso poi niente, ma carità, si ha mangiato di dinacchi, si mangia il cane, si mangia, cioè non vale manco una casa, non vale, vivono come barbone, cioè, ma stiamo scherzando, siamo. Io invece che avrei voluto una vita migliore, non ce l'ho, porca miseria, questa gente che ha avuto la fortuna si ha mangiato tutti di dinacchi. Lo so, purtroppo è così, tu non hai mai pensato ad aprirti ad esempio un'attività di bombolaio eccetera eccetera, ad esempio avresti avuto un qualcosina? Sì, sacrificio tanto, perché lo so, il bombolaio è un grande lavoratore, perché quando ho cominciato a portare le bombole che pesano anche 25 kg, a portarle in certe case anche a 4 o 5 piano sulle spalle, non è una cosa semplice. Io lo so perché mio fratello ce l'ha avuto il negozio di bombole, ma non l'ha tenuto per molto tempo, ha tenuto alcuni anni, anche perché aveva anche lui la falegnameria, per cui aveva la falegnameria più il negozio di bombole, ma poi si è reso conto che aveva anche lui la sua età e diceva magari me lo fate fare, diceva boh, basta, il figlio non ne ha voluto sapere di fare il bombolaio e allora se l'ha venduto il negozio. Sacrifici ci vogliono, e allora ce l'ha per fare. In via 25 maggio, come si chiama lì, in quella traversa che c'è via Pietromica, 25 maggio in base si chiama. Rispondo al telefono. Hola, mi senti? Sì, certo che ti sento. Capito Antonio, dunque ti stavo dicendo, quando c'era mio fratello, lui ormai, anche lui ha la sua età, però aveva il figlio, l'ha fatto per un po' di tempo, ma il figlio, sai, è uno dei giovani, sì, lavora, anzi oggi sta facendo l'autista, sta facendo, per cui anche lui si è comprato la casa, non c'è problema, se l'ha comprata lì in via Nurla, se l'ha comprata, vicino al Sacro Cuore, dai. Ha trovato l'occasione di un appartamento, già ne aveva un'altra a Sassari Vecchio, con essa Sassari Vecchio si era affittata e si è comprato la casa lì, però precedentemente abitava a Usini, aveva la casa a Usini, poi a Usini l'ha lasciata stare, ha trovato Magamelo Basebame, ha viaggiato ogni volta per venire al lavoro, allora si è comprato l'appartamento che gli è capitato un'occasione, se l'ha tutto aggiustato, tutto messo a posto, se l'ha comprato in via Nurla. Ci sta facendo una posizione, non è facile fare una posizione, diciamo, non è per niente facile, purtroppo vuol dire che è un lavoro buono, lo sta facendo l'ottica di cambio, no? di trauro, non è bene. Sì, il camion porta il camion, sì, forte, se aveva preso la patente per il camion, tranquillamente, e lavora così col camion, non c'è problema, e le piace anche, dice, è una vita che mi piace questa, che poi tra l'altro è anche falegname di mestiere, però non ha voluto fare nemmeno falegname, dice, no, non mi piace a me questo mestiere, perché mio fratello ce l'aveva la falegnameria, e dunque lui era col padre e aveva imparato anche a fare falegname. Però poi ascolta, ma te la prendi tu? No, vendi tutto perché io non voglio niente di falegnameria, non mi piace a me questo mestiere, non ne voglio fare, Vabbè, se non lo vuoi fare, allora me lo vuoi fare. Adesso mi sto prendendo la patente, beh, ci ha preso la patente per il camion e guido il camion. Dice, quello è il mestiere che piace a lui. Sai, lui è appassionato molto di motori, infatti è una di quelle moto pesanti, no? Fa le riunioni, con questi motoristi, vale, no? Questi motociclisti scamanati. Io ti chiamerei anche di moto, tipo americana, così. Quanti punti che ti piace, non voglio dare qua. Anche io ci sto pensando, ci sto sempre pensando, ci sto. Perché a me io adoro il camion, mi piacciono i camion, mi piacciono i mezzi grossi. Però ci sto un po' pensando, ci sto. Solo che cosa mi vedete di nave, non mi cazzo quasi 5.000 euro. Eh sì, lui è appassionato di motori, molto, molto, ma molto appassionato di motori, veramente. E aveva comprato anche una di quelle moto così, qualche volta, non sempre, ma una volta ogni volta di babba, va e si fa anche lui un piccolo raduno, si fa così, ma no, non più di tanto però, la verità, non è che... Dice, vado così tanto per svagarmi un giorno e basta, ma niente di più. Se no, dice, se per andare con questa gente c'è da fare tutti i giorni il raduno, ma io non faccio, devo proprio raduni di tempo, no, assolutamente, devo lavorare, eccetera. E lui porta il camion, te lo sto dicendo, è appassionatissimo di motori, di mezzi a motore, boh. Pure a me piacciono le moto, piacciono le cose, infatti la moto mia ha pochi piponi in mano, ci metto mano io e adesso tra un po' cambio la, perché io non la tengo più di tanto, tra un po' ci fa la manutenzione, controllo i rulli, controllo la cinghia, la sera cambio per 12 euro, non me ne ho di nulla. Avevo 14 anni la moto, però non ho mai avuto la passione della velocità, mai. Io quando andavo in comitiva con altri amici, sempre con la moto, ero sempre l'ultimo, ero sempre quello di coda, ero io, gli altri tutti ad avanti, ogni tanto si facevano una tirata, sai, a superarsi l'uno con l'altro, ero sempre ad avanti, sempre l'ultimo, ero, perché non mi è mai piaciuto correre, era tu. No, a me corro giusto, quando piove ando piano, non me la fotti nulla, vado piano perché non mi devo spaccare le ossa. Arrivo a casa, ho 10 minuti più tardi, però non corro più perché troppi incidenti, troppi casini, non voglio più spaccarmi la moto, capito? Non voglio più andare come un macco, no. Vado piano e basta. Quando è asciutto già corro ogni tanto, soprattutto la mattina. Domani mi ha dato a farla. Ma mi sono un po' stufato, mi sono, perché le ossa sono le mie, capito? Io lo credo, no, la moto bisogna portarla con giudizio, con la testa sulle spalle, no, non si deve correre. La moto è bella, bellissima, anche troppo bella, però bisogna guidarla con la testa, con giudizio, no, no a farlo mancanti, molto, ui, lascia perdere. Bisogna sempre, sempre andare piano, con prudenza e soprattutto con grande attenzione. Ci vogliono quattro occhi, ci vogliono due, quattro venivoni quando si è in moto per controllare la strada e tutta la situazione della circolazione stradale, a carità. Lo so, io una volta ero raggiunto con quella moto, e tra l'altro ero bulgaro nel Nebbiano, per fortuna. Avevo trovato la sabbia, ho trovato tornando da Sentino, mi ha scivolato la ruota di dietro, mi sono raggiunto come un macco. E mi sono graffiato tutto il fianco, mi sono compreso il braccio e tutto. E stavo camminando piano, però è stato un incidente perché un camion prima di me era passato e aveva seminato della sabbia per terra. E chi mai poteva pensare che essendoci io dietro così potevo scivolare? E invece è capitato che sono gugagliuto e mi sono massacrato. Ma comunque, ero giovane, vabbè, riprendi. Vabbè, succede la prima volta nella vita, perché io ieri cazzo con il motocarro per un scopo di nuovo di un pezzo di merda che non mi ha fatto entrare in corsia, che mi hanno messo il dogata a Rugoso, che li avrei uccisi, cazzo, li avrei, vabbè, comunque sono stato attento, non ho provocato nessun danno. Di una merdaccia che io, cioè, c'era la freccia e tutto, stavo per entrare nella corsia, mi sono dovuto spostare perché questo ci dà tutto motore, cioè, e c'era la linea traccheggiata, la freccia pure, cioè, io gli spaccherei la testa a questa gente qua di merda, perché sono gente di merda, cazzo, cioè, non sanno solo, non sai cosa sanno solo pigiare, l'acceleratore basta. Non è che guardano niente, stanno pigiando l'acceleratore in blu. Ma è così, Antu, è così, lo sappiamo, io ho sempre detto questo, ho sempre pensato questo, difficilmente il pericolo viene da te stesso, il pericolo viene sempre dagli altri, perché sono gli altri che sono scorretti guidando, eccetera, per cui ci vuole molto, ma molta attenzione e bisogna camminare piano, perché se uno disgraziatamente ha un contatto così, se si è nel Nebbiano, hai mille possibilità di farti qualche graffietto così, vabbè, però se sei correndo o chiaro sai cosa succede, allora a quel punto lì. Certo che lo so, è marri la macchina, è marri, ma è colpa di un macco di gazzetta. Cosa succede? No, c'è troppa gente che non sa guidare, cioè io li rifare tutte le patenti, avrei rifatto rifare. Cioè, di punti, cazzo, deve andare a 30 all'ora, cazzo, ci vanno molto di più, vanno. C'è la zona 30, molto città, e c'è tutto motore, insomma. Tu sono al telefono, scusa che sono al telefono. Ok. Lo so, purtroppo c'è gente così, c'è, che fanno danno molto, ma molto attenti. Anche perché per quale motivo uno si deve creare dei problemi solo per il gusto così di accelerare troppo il correre? No, no, è meglio. Sì, vi ripeto, un incidente può capitare anche camminando piano, sia ben chiaro, non ci sono dubbi. Uno o che vai tu addosso agli altri, o che gli altri vanno addosso a te, l'incidente magari alle volte succede ugualmente, anche se stai camminando piano. Però il discorso è sempre questo: se stai camminando piano hai molte probabilità di non farti niente, o al limite qualche cosettina da niente, ma se sei correndo dalla PD. Lo so, anche io purtroppo quel vizio lì, però dopo lo posso fare, per esempio andare da Pusciodorra, la moto la faccio andare forte, cioè la tiro molto, però cioè, in città sì, tiro ma un po' di meno, la faccio andare piano. Certo, sì, ma è così. Perché se sei su strada libera può anche andare bene, una tiratina la puoi anche fare, sempre naturalmente con la massima prudenza, è ovvio. Però in città è da scalmanati, correre in città è proprio da scalmanati, la gente senza testa. Secondo me sarà anche un po' di un po' verdoliata, perché tu non cammini molto. Ok. Va bene, tu dai, ti lascio, dai, che devo uscire. Devo uscire, che mi aspettano. Per cui non mi dispiace di lasciarti da solo, visto che non è entrato nessuno, ma comunque più di mezz'ora già ci siamo, 40 minuti più o meno al baracchino, forse anche qualcosina di più, una chiacchieratina ce la siamo fatta, Ci sentiremo magari domani se coincide tu. Ok, scusa dai, ma devo uscire, che mi hanno chiamato al telefono che mi aspettano, se no gli ho detto sì, vabbè, già vengo, se no magari poi si fa sentire con anche loro. Ciao Antu, grazie per la chiacchierata, dai, alle prossime. Ascolto il finalino, poi chiudo, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo Giulio, ci sentiamo alle prossime, ciao, ciao, mi ha fatto piacere. Ciao, ciao. C'è qualcuno sul 10? C'è qualcuno sul 10? Attenzione canale 10, c'è qualcuno, frequenza? Pagare! Sei forte, chi sei? Antonio! Oh ciao, sono Bruno, stavo cercando di capire se stavo uscendo perché ho cambiato il paracchino, stazione, la macchina. Allora, sto attento qualcuno che mi dica se sto uscendo. Cappa, sei a fondo scala qua, C'è una bomba. Insomma, nella macchina. E dove vuoi andare? Allora io mi trovo già alla Feroce, tu? Io sono alla Feroce, è logico che ci arrivo così forte, cioè che mi si sento così forte. Sì, io ti ho aperto una di quelle tante calamità che ho sentito, di tanto tanto. Sento dalla macchina, perché ho notato che dalla macchina se non ne vado, oggi non sono andato. Io di solito vado su alle 15, a zona alta, no? Mi sento dappertutto, metto quella boomerang che ho sul balcone, esco, però ho l'impressione che esco meglio dalla notte. Faccio adesso stasera, adesso sono incoraggiato che lui più o meno sa come esco, anche vicino, per cui adesso se c'è qualcuno chiedo qualche controllo. No, c'è la radio è buona, c'è la fondo scala. Non so come ti arrivo io, ma penso a fondo scala. Sì, c'è molto forte, infatti passa per la pera, quando è così il segnale così forte si va. Non è che senti male, ma sente proprio la bombardata, per cui diciamo che si abbassa appena va. No, ripeto, è bella la radio, quello il segnale è a fondo scala, non è che. Beh, siamo a voi bassi, siamo. Sarei qua su, cioè, le luci gialle, minimo. Però credo che io sono la Feroce, l'antenna sul tetto e tutto. Arriva una bomba. Allora io adesso sto la rotatura più avanti il distributore della Esso, sulla destra mi sono parcheggiato, c'è uno schiaffo e mi sono parcheggiato lì. Abito in zona, per cui diciamo che per provare, per entrare a salutare qualcuno adesso mi sono gruppato. Di solito me ne vado solo qui, se da là mi sento tutti bene. Ciao, no, ho compreso, io ti sento bene. In linea d'aria qua ci sono neanche 50 metri in linea d'aria, immagina già di tu cosa è, riesco molto molto forte, capito? Ma no, assolutamente, io sono in Piazza Botte, come devo immaginare. Piazza Botte è dove c'è la cosa, di così? Lì vicino proprio, cioè se tu guardi in uno faceto la mia antenna si vede proprio, dalla Budi si vede bene proprio, cioè dall'altra, non proprio dalla Budi ma in chi vive a Vasco de Gama e quella zona di dietro per andare alla Conad. Se tu guardi nello spazio di palazzo si vede benissimo la mia antenna, cioè io da te in linea d'aria non sono nemmeno di 50 metri saranno, immagina già di giù. No, io quando passo lì vedo l'antenna di Gio Maria, ma quella comunque da 50 anni che Maria ci chiudiamo già da qua dietro. E tu dove abita? Facci qualche volta è qualche giorno vicino. Io ti dico la verità, io ci abito già 5 anni, ma prima abitavo a monte. Non ho ancora capito un cavolo di queste vie, dopo che mi scusi le vie. Dunque, via Bellini è dove abito io, insomma, più o meno. Era lontano, ricordi dove abitava Coso, Fogliadoro, cioè la buon'anima, ti ricordi? Ah boh, e chi era Fogliadoro? Non lo ricordo, perché io sono stato sono da 30 anni che non so cosa è questa, per cui sto entrando da un annetto, cioè sono un personaggio che è passato in questo periodo, magari io li ho conosciuti, capito? Bueno, un po' di anni fa, fino a 2 anni fa, capito, forse non c'è, comunque non c'è da sbagliare, dove c'è la piazza proprio, se tu alzi la testa la vedi, non c'è proprio da sbagliare, non c'è, è una GPE della Sirio, tipo la Energy, una bella così, non c'è proprio da sbagliare, guarda. E io dovevo piazzare l'antenna, le punte, poi alla fine c'era il cantiere, hanno fatto i lavori, per salire sul tetto devo entrare in casa di uno che va sull'attico, c'è l'attico, e hanno messo tutte quante pannelli solari, insomma alla fine è un casino, anche perché cioè, mi farebbero salire a piazzare l'antenna, tutto, la stazione 26, diciamo, una bella antenna, solo che poi la succede. Tira vento, è d'inverno, e devi controllare quel tirante o qualche cosa, e devo passare sempre a casa dei clienti. E non ho capito questi palazzi come li hanno fatto, la cooperativa come l'hanno fatta. E io per andare sul tetto devo entrare dentro casa della gente, devo passare nell'attico di questi signori e salire su. Per cui mi rompe un po' le palle. E allora ho messo una boomerang che ho comprato da quello che c'è di mille, come cavolo. Una boomerang da 3 metri, là ce n'era una da 1,50 m, io ho preso quella da 3 metri. E va benino, però così ho evitato di mettere i pali sul tetto. Certo che va bene, se ti è fatta bene va la grande. Non so, però io sono per questi palazzoni di cemento, che è fermato da grande, per cui io sono al secondo piano, il palazzo è quasi al primo piano, capito? Secondo, terzo, quarto, quinto, sono 3 piani sopra, per cui diciamo l'antenna è diretta verso Bademanna, verso la zona alta, per cui ho un po' coperto la zona, quando parlo da casa, la zona della Pelosa, perché lo stilo, diciamo così, l'antenna è diretta verso il monte, là. Capito. Ma qua io te l'ho sentito arrivi forte. siamo vicini, magari se vai a parlare con qualcuno tipo per esempio a Ottava, che tipo non tanto bene, degli amici, ripeto, molte volte sento meglio dalla macchina. Ad esempio l'altro giorno la Piazza Mona, io ho fatto una bella chiacchieratina con gli amici, e nella Piazza Mona però sono una portatore, se non sono fermata, la rotonda, e mi sentivano discreto, vabbè, Piazza 7, Piazza 8, Piazza 9, però mi sentivano bene. Il problema è, soprattutto questo microfono, che io ho comprato un certificato, l'abbiamo pensato però non andava bene, non era compatibile ad essere con questo apparecchio. Se no magari la radio avrebbe migliorato, perché tutti mi dicono che la radio non è molto alta. Non lo so. Allora, però comunque sia, se metti un'antenna buona non ci devi salire. Cioè, non ci devi salire spesso. Cioè ci salirai ogni tanto, ma non una volta ogni volta di papà. Non ci metti un'antenna buona, no? Non ci salirai mai, perché devi fare un lavoro come si deve, capito? Io quando ho messo questa non sono più salito, cioè che la persona che ha detto che non vi piazza bene tra capi e giulia. Lo so, però questo sarebbe anche salire. Io non lo so, ma che criterio mi fate? Io abitavo in un altro palazzo, al mondo che abitavo. Dove nell'ultimo piano c'erano le soffitte, dalla mia soffitta c'era una finestrella e andavo sul tetto. E da lì ho sparato forte, cioè che furono, ma anche che avevano antenne buone, avevo avuto la direttiva, ho avuto antenne buone, a quei tempi dal monte sparava bene. Qua c'è anche un'altra soluzione, diciamo, piazzare un'antenna senza radiali, tipo le vecchie antenne, tipo le tipo Vengibus, le Ring, ecco, facevano la Ring allora, tipo 80 anni fa, che aveva dei radiali piccolini, oppure aveva semicerchio insomma, e poi avevi 4-5 metri d'antenna. E quando abbiamo potuto, anche a quel punto, con un'antenna così, sul balcone, tanto si può mettere, e con un lineare sulla 100 watt magari si sente. Allora. Dove metto l'antenna senza radiale sul tetto? Grazioli, cioè un'antenna bella robusta, cioè non è che ti dura molti anni, costruita bene, è un'antenna buona. Farò pensierino perché prima o poi non riuscivo a fare, anche perché a questo punto stavo comprando anche a fare che un po' più decente, e poi mi sono fermato, perché 60 anni che cazzo faccio. Ne avevo mille applicazioni, non ne avevo avuto che fare dietro, poi avevo dato tutto, avevo venduto la linea anche per il contadino, la linea ieri, poi niente, il vecchio lineare piccolino, il giambo, a quei tempi tutti avevano molta potenza, perché se non avevi potenza non sentivi più nessuno, perché era un casino. A quei tempi si parlava di brutto, si sentivano anche nei citofoni, però adesso diciamo c'era molta gente prima, adesso c'è poca gente, non hai splatter, non hai niente, non hai gente, io c'ho solo a Gianni che quando entra lui deve andare nel canale suo e basta, prima invece dove andavi, cioè tre volte erano composte da 20, 30 persone che stavano in linea aspettando, cercavate, era un casino, era. E allora quando avevi qualche vicino di casa che sparava, anche tu dovevi, lasciamo perdere. Beh, allora è tutto diverso, era. Lo scomposto si è preso qua tre giorni, per carità. Tutti vogliono una mania della bocca. Devo salutare, devo andare a mangiare il bambino, ok, ci risentiamo. Ciao. Guarda, sei rimasto, ma devo andare a mangiare a mio figlio, purtroppo. sono bello, non avendo la mamma, sono bambino, devo fare tutto io. Ok. Thank you.